146. Frittata in zoccoli. Questa frittata merita una menzione speciale perché richiede un trattamento alquanto diverso. Prendete fette di prosciutto sottili, grasse e magre. Tagliatele a pezzi larghi quanto una moneta di 10 centesimi. Mettetele in padella col burro e quando avranno soffritto un poco, versateci le uova pochissimo salate. Quando la frittata ha cominciato ad assodare, ripiegatela per metà, onde prenda più propriamente il nome di pesce d'uova, ed aggiungete altro burro per finire di cuocerla. 147. Frittata di cipolle. Preferite cipolle bianche e grosse, tagliatele a coste larghe mezzo dito e gettatele nell'acqua fresca per lasciarvele almeno un'ora. Prima di buttarle in padella con lardo e olio, asciugatele bene in un canovaccio e quando cominciano a prendere colore, salatele alquanto, come salerete le uova prima di versarle sopra la cipolla, che avvertirete non prenda il nero per troppa cottura.